La prima volta. Livio Pepino, classe 1944, è un ex magistrato, membro del Consiglio Superiore della Magistratura. È un uomo di grande coraggio che quello che pensa non lo manda a dire e se può lo scrive, tanto perché resti a memoria futura. Si è espresso molte volte contro la TAV e a sostegno della gente della Val di Susa che da anni si oppone al progetto. Pepino è un magistrato che si è occupato di 'ndrangheta, che ha sollevato il coperchio di un potere, quello della magistratura, spesso non proprio lineare. Per quello che racconta la vita di un uomo, quella di Pepino è la storia anche di un intellettuale che ha saputo dedicarsi agli altri già a partire dalla scelta di diventare magistrato. Come spesso accade quando si è ragazzi, non era la scelta dettata, come dire, da una vocazione o da una tradizione familiare, è stata una scelta fatta dopo aver frequentato giurisprudenza, perché nell'ambito di una serie di conoscenze familiari eccetera avevo visto persone che facevano questo tipo di attività. Nell'ambito dello studio universitario mi aveva interessato questo settore e poi ho provato, come allora c'era più facilità di trovare lavoro che non oggi. Ho lavorato, cioè facevo il concorso in un istituto studi problemi economico-sociali, lavoravo sul territorio e poi ho vinto il concorso e ho detto proviamo. Ed è stata un'esperienza, secondo me, di grande interesse. Io ho lavorato soprattutto nel settore penale ed è stato anche un percorso, un tentativo di capire com'è che nascono anche fenomeni di devianza, di delinquenza, il rapporto tra le responsabilità individuali e le responsabilità sociali, il tipo di interventi possibili. È un settore, secondo me, di grande interesse perché riguarda sempre la storia dell'uomo, la storia di tutti noi. E ho capito una cosa, che l'intervento dello Stato, l'intervento penale, l'intervento repressivo è una necessità, e credo che vada, non avrei fatto per 40 anni il magistrato se non pensassi che lo fosse, che però la realtà è più complicata delle semplificazioni buoni e cattivi, bianco e nero, no, la parte migliore della società e la parte peggiore della società. La realtà è molto più complicata ed è molto più intrecciata. E quindi questa è la summa del suo lavoro, cioè capire che dietro alla storia di un singolo ci sono tante possibilità, magari tante strade non percorse, e incontri sbagliati, però appunto una cosa molto complessa, quindi imparare a leggere la realtà nella sua complessità, anche questo è un po' un insegnamento. Sì. Sa che tutte queste cose si sentono molto nel libro che ha scritto, perché c'è molto uno studio antropologico, sociologico, ed è anche un po' un testimone, io lo consiglierei anche ai ragazzi questo libro. Secondo me questa complessità si riflette poi dalle vicende individuali e interne anche in vicende collettive, quindi può anche essere una chiave interpretativa di vicende più ampie. Credo che proprio le semplificazioni siano uno dei problemi più rilevanti che noi viviamo in questo periodo. Ripeto, a volte sono agitate in maniera strumentale, altre volte sono anche in piena buona fede, però l'idea, per esempio, che un fenomeno si possa cancellare con un intervento repressivo è un'idea dettata probabilmente dall'incapacità di trovare altre soluzioni. Ma pensa a cosa sta succedendo a livello internazionale. La strategia del muro contro muro dopo l'11 settembre e ci ha portati a una situazione sempre più grave, Noi in questo momento abbiamo da una parte, secondo studi diffusi in questi giorni, dall'11 settembre ad oggi, soltanto in Iraq, Afghanistan e Siria, 1.300.000 morti, e per altro verso abbiamo un terrorismo internazionale di una intensità, di una crudeltà, di una efferatezza che era probabilmente impensabile in questi termini 10 anni fa. Cioè la strategia del muro contro muro, che è stata probabilmente attuata pensando di poter risolvere in questo modo un fenomeno, e lo sta probabilmente aggravando sempre di più. Allora bisogna riuscire a percorrere altre strade complicate, ma che puntino non solo sull'uso della forza come strumento per risolvere i problemi. Però devo dire che anche questo è molto difficile nel contesto in cui siamo. Mi viene in mente per esempio l'utilizzo dei social network per commentare le cose, quindi l'immediatezza e la volontà di arrivare in fretta ad avere in mano la storia, no? Noi stessi, noi giornalisti stessi ormai puntiamo ad essere i primi a raccontare una cosa e non quelli che la raccontano tra virgolette meglio, no? In maniera più approfondita. Quindi anche questo sta forse peggiorando la situazione rispetto al punto d'arrivo che lei citava adesso. Certo, ma guardi, questo è uno dei problemi. Io credo per esempio che tutto il sistema dell'informazione sia uno dei nodi cruciali di questa situazione, che non si risolve anche lì con le leggi, con le indicazioni, si risolve con una crescita culturale complessiva, perché non è che c'è nessuno che può dire all'informazione che cosa deve fare, che però su questo si possa riflettere. Io le cito un dato che avrà visto nel libro, ma proprio come dati che riguardano le notizie sulla criminalità. Una ricerca che è stata fatta da una fondazione che si occupa di Pavia, che si occupa specificamente di questo, si dice che per esempio nei telegiornali, nei diversi telegiornali italiani, le notizie sulla criminalità nel telegiornale della sera, delle 20 o di orario prossimo, si passa da studio aperto, che ha in un anno 1.369 notizie di criminalità, fino alla 7 che ne ha 125. Allora non c'è dubbio che chi ogni sera, se sono 1.369, si trova in un telegiornale 3 notizie di criminalità, e oppure se vede un altro telegiornale ne ha una ogni 2 giorni, ha una percezione della realtà profondamente diversa. E questa percezione della realtà diventa poi un vissuto profondo. Gran parte delle indagini sociali dicono, e questa è una cosa molto curiosa, che le persone interrogate per esempio sulla sicurezza della loro città trovano, salvo alcune eccezioni ma limitate, relativamente sicuro il quartiere che conoscono, assolutamente insicuro il pezzo di città che non conoscono, il che significa che la percezione diretta da certe comporta certe valutazioni, il resto è mediato dalle informazioni che uno riceve. E questo è secondo me uno dei problemi, ripeto, che non può risolvere nessuno dall'esterno, ma su cui l'informazione al suo interno credo che debba riflettere per vedere, non per censurare delle notizie, perché le notizie vanno date tutte, ma per vedere come darle, con che intensità, con quale reiterazione, perché questo è decisivo secondo me nel vissuto delle persone. Sì, sono d'accordo, e credo che all'interno della categoria ci sia in corso questo dibattito, e spero che si arrivi poi a, insomma, secondo me non si arriverà, come diceva lei stesso, a una presa di posizione, come dire, scritta o formale, ma più a una scelta fatta dai singoli che magari poi influenza anche gli altri all'interno delle redazioni. Però purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, è stato molto interessante averla come ospite. La ringrazio molto e mi ha fatto molto piacere fare questa chiacchiera con lei e spero con una qualche utilità per chi ci ascolterà. Vi ricordo che l'intervista a Livio Pepino sul suo libro Prove di paura è possibile riascoltarla in podcast. Venite a trovarci sulla pagina di Radio 24, cercate La prima volta, lì c'è tutto, indirizzo email, Facebook e anche le puntate precedenti se volete riascoltarle. Grazie ancora e a domenica prossima. Buona giornata da Cristina Carpinelli.